Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, molte trimestrali, oggi soprattutto di carattere bancario, ne parleremo, le due big, Unicredit e Intesa San Paolo, hanno diffuso infatti i dati e la reazione di borsa non si è fatta attendere in una borsa che è abbastanza piatta, anzi piattissima, meno 0,09%, mentre altri indici, e mi riferisco per esempio al DAX tedesco, sono più di 0,12%, Parigi con CAC 40 più 0,51%, giornata abbastanza piatta oggi sui mercati, ma dicevo, in Italia da un lato c'è la vicenda Monte dei Paschi, anche se si è molto sgonfiata rispetto ai rialzi che hanno portato questa mattina a congelare il titolo, adesso Monte dei Paschi guadagna 2,40%. Poi ci sono le trimestrali di Intesa San Paolo, ma anche di Unicredit, accolte bene, adesso i titoli hanno un po' ritracciato, Intesa è invariata, mentre Unicredit ha avuto un'accoglienza fredda che poi è diventata sempre più fredda, meno 3,66% in questo momento, è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. I profitti di Unicredit hanno fatto più 79% e l'utile dei primi 9 mesi è andato a 1,8 miliardi, vicino all'obiettivo dei 2 miliardi fissato dal piano industriale. Per quello che riguarda invece Intesa San Paolo, il terzo trimestre si è chiuso con utili per 483 milioni, superando le attese degli analisti. Anche sui 9 mesi, a questo punto, gli utili per Intesa San Paolo vanno a 1,2 miliardi, meglio delle attese degli analisti. Poi la vicenda Monte dei Paschi, dicevamo questa mattina il titolo molto molto forte, sulle voci di un interesse da parte dei francesi di BNP Paribas per Monte dei Paschi. In realtà si sarebbe trattato di una semplice ipotesi avanzata in un approfondimento dell'agenzia di stampa Reuters, in cui venivano stimate possibili sinergie tra le due banche per 3 miliardi di euro. Monte dei Paschi non ha rilasciato commenti sulle voci di un'offerta targata BNP Paribas, e infatti devo dire che dopo la fiammata iniziale il titolo, come ricordavamo, è tornato su livelli molto molto più cauti quanto a rialzo. Adesso, mentre parliamo, il titolo si sta portando al 2,48% di rialzo. Molto forte oggi Tod's, più 2,80, Fiat Chrysler Automobiles più 2,81%, euro a quota 1,24,33. Allora, oltre che di bilanci bancari, oggi parleremo da un lato del nuovo catasto, c'erano già molte anticipazioni sui giornali a partire dal Sole 24 Ore oggi, il Via Libera però è arrivato ieri a programma già chiuso e quindi ce ne occupiamo oggi, Via Libera definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo per le commissioni censuarie, come si chiamano in gergo, sono gli organismi che di fatto attiveranno la riforma del catasto. Cambia quindi il calcolo delle rendite catastali, questo per avvicinare, lo abbiamo detto molte volte, il valore catastale con il valore di mercato, anche perché siccome su questo poi si calcolano le varie tasse sulla casa, l'IMU, ICI, IMU e ora TASI, avere degli immobili che hanno un altissimo valore ma sono magari in catasto come immobili non di pregio, immobili quasi popolari, che pagano meno, pagavano meno ICI, meno IMU, meno TASI di immobili di minor valore ma che per qualche motivo nel catasto sono considerati di maggior pregio, non aveva senso. Così come la ridefinizione del catasto andrà a guardare i metri quadri e non più i vani. I vani si applicavano in Italia che non c'è più, in cui era importante quanti vani avevi. Immaginate le distorsioni che arrivano sul fronte dei vani, se voi immaginate che per il catasto pesano più 3 vani di un loft. Ora sappiamo benissimo che molte volte l'appartamento di pregio è loft, anche se di vani apparentemente ne ha soli 2. E poi l'ubicazione, l'anno di costruzione, i livelli di finitura. I nuovi calcoli interesseranno 35 milioni di abitazioni e uffici e 26 milioni tra negozi ed edifici commerciali. La legge prevede in realtà che il gettito complessivo resti invariato. in questo momento gli immobili degli italiani, sia come immobili privati che come immobili commerciali d'ufficio, garantiscono allo Stato introiti ogni anno per 52 miliardi di euro. Però faremo anche dei calcoli di come potrebbero cambiare oltre che i valori, anche le tasse applicate sui valori di questi immobili. In apertura invece una polemica che di nuovo si è riaccesa a Bruxelles. Perché lo dico? Perché a Bruxelles ci sono nuovi dubbi sulle coperture della legge di stabilità, della legge finanziaria che abbiamo presentato. Incerti i risultati delle riforme e incerti anche i risultati della spending review, lo scrive la Commissione Europea nel rapporto sugli squilibri macroeconomici italiani. Dice l'Unione Europea: le riforme sono cruciali, attenti ai colli di bottiglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che se troppe riforme si accavallano e arrivano tutte quante nello stesso periodo, si crea un effetto chiaramente imbuto. E poi sempre Bruxelles punta il dito contro l'Italia, dicendo che ci sono ritardi nel piano di privatizzazione, e le informazioni ricevute da Bruxelles e inviate dal governo italiano sono limitate, le informazioni concrete disponibili, manca il calendario delle privatizzazioni. Di questo parleremo in apertura. Gli altri temi riguardano, oltre che la borsa, le trimestrali e chiaramente anche la ridefinizione del catasto, sono come sempre riassunti nelle nostre notizie in breve. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. Un dato da registrare oggi riguarda Tokyo, perché la borsa di Tokyo ha chiuso per la prima volta dal 2007 sopra i 17.000 punti, più 2% oggi l'indice Nikkei. È salito comunque ai massimi dagli ultimi 7 anni fino a 17.124 punti. Perché? Perché circola con insistenza l'ipotesi che vi sia un rinvio dell'aumento dell'IVA da parte del premier Abe, e dovrebbe passare dall'8 al 10% al fine di non appesantire la ripresa economica giapponese. Questo ha avuto anche un effetto sullo yen, ed è un altro motivo per cui la borsa è volata, perché lo yen è crollato, diciamo, o è calato per essere più precisi, ai minimi dall'ottobre del 2007 nei confronti del dollaro, 116 yen per un dollaro. La vicenda chiamata LuxLeaks, quella che coinvolge il Presidente della Commissione Europea, neopresidente Jean-Claude Juncker, e lo coinvolge perché è stato per 18 anni primo ministro del Lussemburgo. La vicenda, ricorderete, che vede un'inchiesta in corso sugli accordi sottobanco che Lussemburgo avrebbe preso con centinaia di grandi gruppi per favorire anche più del previsto flussi finanziari, quindi far pagare le tasse lì e non in altri paesi. La dico in maniera un po' brutale: l'accusa è di avere preso accordi sottobanco con almeno 340 società globali, per non dire dei fondi di investimento, con almeno 3.000 miliardi di attivi. E tra l'altro il Lussemburgo in questo modo, scrive oggi il Financial Times, ha fatto della sua popolazione la più ricca dopo il Qatar. C'è una nuova accusa, dicevo, in un editoriale firmato dall'agenzia Bloomberg, che dice sostanzialmente Jean-Claude Juncker deve lasciare. È stato primo ministro lussemburghese mentre il paese diveniva un po' l'attrattivo fiscale. Al centro delle accuse la segretezza bancaria in stile svizzero e l'elusione fiscale benedetta dal governo, che ha prodotto, secondo la Bloomberg, un'aliquota effettiva per le aziende che è arrivata allo 0,25%, cioè tutti questi centinaia di miliardi arrivavano in Lussemburgo per poi pagare, con un doppio effetto: non pagavano le tasse nei paesi in cui venivano prodotti, e questo è un problema, e già su questo sono mossi i paesi, anche la Commissione Europea. La tentazione, diciamo che è una tendenza in alcuni casi, di far finta che tutta la fatturazione sia nella sede dove le tasse sono più vantaggiose, Svizzera, Irlanda, e quindi che le filiali non fatturino nulla, ma tutto viene fatturato dalla sede più fiscalmente più vantaggiosa, è una pratica che abbiamo già visto. Ma in questo caso si tratterebbe addirittura di accordi che andrebbero anche a diminuire ulteriormente la tassazione del Lussemburgo, fino, dice la Bloomberg, a portarla allo 0,25%. E la Commissione Europea, continua l'editoriale, stava già conducendo un'indagine sugli accordi fiscali del Lussemburgo. Juncker ha detto che non interferirà, ma a questo punto potrebbe servire meglio il progetto europeo dimettendosi. E questo editoriale segue una dura presa di posizione con fonti di Juncker da parte del Financial Times. Domenica, l'altro ieri, proprio il Financial Times metteva in luce le contraddizioni dell'attuale presidente della Commissione, che si batte per l'armonizzazione fiscale dell'Unione Europea, cioè tasse simili in tutta l'area euro, in tutta l'Unione Europea, dopo aver però approfittato proprio di questa frammentazione delle regole fiscali per creare la ricchezza del Lussemburgo. Adesso arriviamo all'Unione Europea, vedo già molti messaggi su questo. È la data per sapere che cosa pensa definitivamente la Commissione Europea della nostra legge finanziaria, della nostra legge di stabilità. È il prossimo 24 novembre, quando la Commissione Europea voterà tutte le manovre finanziarie dei paesi dell'area euro. Tra l'altro, nella legge di stabilità ci sono alcune novità. Nel solo 2015 le imposte sui carburanti potrebbero aumentare di quasi 8 centesimi al litro se dovesse essere confermata la nuova clausola di salvaguardia inserita nell'emendamento del governo alla legge di stabilità. Cos'è la clausola di salvaguardia? Vuol dire che se tu non riesci a ridurre il deficit come hai promesso, in automatico, clausola di salvaguardia, scattano delle misure che tipicamente sono aumento dell'IVA o in questo caso delle accise. Restiamo in Italia perché purtroppo sta accadendo quello che molti temevano, noi compresi. Lo Stato ha annunciato nella legge di stabilità un taglio di trasferimenti per gli enti locali, regioni, 4 miliardi in meno. E gli enti locali, in questo caso le regioni, si rifanno aumentando le tasse di loro pertinenza. Si è mosso per primo il Piemonte, tra l'altro Chiamparino è anche presidente della conferenza delle regioni. Dicevo, il Piemonte è alle prese con un deficit di 2 miliardi e mezzo di euro e la giunta Chiamparino ha deciso di alzare al massimo consentito l'addizionale IRPEF per i redditi sopra i 55 mila euro, che arriva così al 3,33%. Vuol dire che il prelievo aumenta da un minimo di 120 euro fino a 1000 euro in più per i redditi da 150.000 euro l'anno. Certo, per i redditi tra i 40 e i 55.000 euro c'è un rincaro minore, lo 0,44%, che vuol dire in media 52 euro in più. Aumenta poi del 10% la tassa di circolazione per le auto sopra i 100 cavalli e aumenti in vista sempre in Piemonte anche per il bollino blu sugli impianti termici. Non viene alzata l'IRA per né il prelievo sulle fasce di reddito più basse. Potrebbe arrivare qualche piccolo incremento sulle detrazioni per i figli a carico. Previsti anche tagli di spesa per 100 milioni di euro. Chiamparino ha ricordato che il Piemonte deve garantire servizi per 580 milioni di euro e ne ha a disposizione solo 70. L'Agenzia delle Entrate oggi fa sapere che ammonta a 223 miliardi di euro l'imponibile non dichiarato al fisco per l'IRAP. Questo nel periodo, attenzione, 2007-2012. È uno studio dell'Agenzia delle Entrate sul cosiddetto tax gap. calcolando la differenza tra gli imponibili dichiarati e l'economia reale. Il tax gap sull'imponibile IRAP è di 97 miliardi al nord, 74 miliardi al sud e 51 miliardi al centro. So già l'obiezione, viste le differenze di produzione industriale, 97 miliardi al nord e 74 al sud, viste così ste cifre, starebbero a dire che per quanto ci sia anche un'evasione dell'imponibile per l'IRAP al nord, forse in percentuale più alta al sud, non abbiamo il dato sotto mano, ma sapendo quello che è più o meno il PIL prodotto dal nord e il PIL prodotto dal sud, il rapporto non è 97 a 74. Tra l'altro la Guardia di Finanza di Pinerolo, ma questo non c'entra con l'imponibile IRAP, ma c'entra con l'evasione fiscale, la Guardia di Finanza di Pinerolo ha sequestrato beni per 2 milioni e mezzo di euro ai fratelli Elmo e Diego Bianciotto. Voi direte chi sono? Beh, sono molto conosciuti in zona per aver tenuto le file l'anno scorso della protesta dei Forconi, che protestavano anche contro le tasse ritenute troppo gravose. Ora, le tasse sono sicuramente gravose, troppo gravose in questo paese per chi le paga. Per chi non le paga e vuole mantenere l'evasione fiscale, almeno abbia la decenza di non dire che le tasse sono gravose. Anche perché due fratelli viene contestata una presunta evasione fiscale di circa 10 milioni di euro legata a un giro di fatture milionarie emesse fra le tre aziende di famiglia. Queste fatture sarebbero false, stampate ad arte per abbassare il reddito. I finanzieri hanno anche sequestrato 7 auto ai due fratelli di grossa cilindrata, fra queste una Ferrari F458, una Porsche 911 con motore lavorato. Una borata vera. Comunque Mercedes AML, Audi Q7 e altre auto da rally. Bloccati 14 conti correnti, sequestrati 23 terreni, 7 immobili, compresa una villa. Beh, a vederle così, le tasse, che sono sicuramente alte per gli italiani onesti, non erano così alte per i due capi dei Forconi, Elmo e Diego Bianciotto, se viene contestata un'evasione di 10 milioni di euro a fronte poi di così dei beni non esattamente da soglia della povertà. Qualcuno ci dice: buffoni, vi siete accorti ora che Juncker è sto presidente del Lussemburgo? No, guardi che buffoni, è un suo giudizio e lo accetto. Però lo sappiamo da sempre che Juncker è presidente del Lussemburgo, poi ha fatto presidente dell'Eurogruppo, adesso è presidente della Commissione Europea. Quello che è successo nel frattempo, cioè 2 settimane fa, è lo scandalo dell'inchiesta sugli accordi presi sotto banco da Lussemburgo per far arrivare lì i capitali prodotti in altri paesi, da gruppi che li producevano in altri paesi, non avevano lo stabilimento in Lussemburgo, non vendevano in Lussemburgo. Il doppio danno è, da un lato, che se ne escono i capitali, ma dall'altro è che i soldi prodotti, fatturati in un paese, non restano in quel paese come tasse. E quindi il Lussemburgo, oltre al danno, ti fa anche la beffa, perché una parte comunque di soldi lì restano. Allora, dichiarazioni forse boomerang, comunque le leggiamo, di Patrizio Bertelli, numero 1 di Prada, durante il Milano Fashion Global Summit. Ha detto, riferendosi all'inchiesta di Rai 3, di Report, di Milena Gabanelli su Moncler, ha detto: portare in televisione il tema dei maltrattamenti causati alle oche per riempire giacche e piumini fa parte di una cultura del passato ormai sorpassata. Per questo la Gabanelli è stata stupida. In questo modo non capisco la distinzione tra una gallina e una balena, ha aggiunto Bertelli. È naturale che in un mondo globalizzato un'impresa cerchi risorse produttive con costi più contenuti, per esempio in Ucraina o in Slovenia. Questo non vuol dire che noi dobbiamo fare i carabinieri sui produttori ai quali ci affidiamo. Lo stesso discorso vale per Prato, dove il popolo orientale ha trovato un'opportunità economica e l'ha sfruttata. Risposta molto secca della Gabanelli, che ha detto: sì, io sono stupida perché pago le tasse, mentre Bertelli, accusato di 400 milioni di euro di evasione fiscale, è furbo. e così come furbo nel produrre in Est Europa capi di abbigliamento che costano 60 euro e vengono venduti a 1000 euro. Non so, io ho ci siamo permessi di dire che la risposta della Moncler all'inchiesta di Report era stata del tutto inadeguata. Non so se convenga però continuare sulla polemica attaccando Report, lo dico in maniera molto neutra. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso il metodo e la pubblicità e poi parliamo dell'Italia sotto osservazione, nuovi rilievi da parte della Commissione Europea. Focus Economia. Non ho capito se stia affilando tra virgolette i coltelli oppure sia un atto dovuto, ma insomma il prossimo 24 novembre la Commissione Europea voterà le manovre finanziarie dei vari paesi, ma già oggi ha avuto da ridire, o meglio ha espresso dei rilievi sulla manovra italiana. Incerti risultati e riforme della i risultati delle riforme della spending review, le riforme sono cruciali ma attenti ai colli di bottiglia, e poi c'è un ritardo nel piano delle privatizzazioni, abbiamo limitate informazioni concrete, dice Bruxelles, manca un calendario. Adriana Ceretelli, giornalista del Sole 24 Ore, nostra ospite, quando dobbiamo capire un po' di più di quello che le agenzie non dicono, perché potrebbe essere il titolo di un prossimo film o libro, quello che le agenzie non dicono. Vabbè dai, piove da 24 ore, non ce la facciamo più neanche noi qui, anzi 48 ore. Perché queste dichiarazioni, visto che fra due settimane arriva il giudizio finale, non, cioè, è per mettere in guardia l'Italia, prepararla, è perché è un atto dovuto? Facci capire. No, secondo me, per dirla proprio, sono quelle specie di... Aspetta un attimo Adriana, perché abbiamo un grosso problema di collegamento, penso anche dovuto al maltempo. Rimettiamo subito in collegamento Adriana Ceretelli, chiedo in regia, e intanto vi do, visto che ho chiuso la borsa, così anticipiamo anche il prossimo tema, vi do verbalmente la borsa chiaramente. Allora la chiusura, per quello, a parte la chiusura finale, vorrei far notare che l'indice, Fiat Chrysler Automobiles ha fatto più 3%, Tod's più 2,40%, Exor più 2,30%, Ferragamo più 1,90%, Monte dei Paschi ritracciato a 1,95% e Atlantia più 1,60%. Per quello che riguarda le borse europee, Parigi alla fine più 0,50%, Francoforte più 0,18%, l'euro è a quota 1,2452, adesso vi arriveremo. E giustamente l'indice di Milano ha chiuso alla fine invariato, meno 0,02%. Ecco di nuovo il collegamento Adriana Ceretelli. Dicevo, atto dovuto, messaggio no. Tra le righe, tentativo di dire, di avvertire l'Italia, guardate che così non va. Quale delle tre, o delle quattro, o delle cinque? No, io direi che forse ce n'è una quarta o una quinta, nel senso che nell'imminenza di un giudizio sempre si vanno a cercare le informazioni, le anteprime, lo scoop grande o piccolo che sia, e quindi a volte insomma si cerca di strappare delle cose che in realtà nuove non sono. Allora, riforme che la Commissione Europea non sia del tutto convinta del passo delle nostre riforme, questo non è una cosa nuova. Circa il calendario, si sa che ci dovrà essere questo calendario e adesso vedremo, ma da qui al 24 ci saranno 3.000 versioni di bozze di conclusioni circa la valutazione della nostra legge finanziaria, e quindi se si vanno a analizzare le singole parole si possono scrivere degli articoli ogni giorno, ma questo non vuol dire che il giudizio finale sarà quello, questo che voglio dire. Poi, relativamente al fatto che secondo me era il più, se volete, preoccupante, cioè della richiesta di una manovra aggiuntiva eventualmente per 14 miliardi come è uscito su oggi, mi pare, da qualche parte, sulla stampa sì. italiana. Ecco, questa è un po' una cosa bizzarra, nel senso che questa cifra, che sarebbe l'equivalente dello 0,9% del PIL, sarebbe stata estrapolata addirittura dal documento inviato dall'Italia a Bruxelles, nel quale si diceva che l'anno prossimo ci sarà questo deficit strutturale dello 0,9%, che ovviamente, se venisse corretto, richiederebbe una manovra di quel genere, ma nessuno alla Commissione per ora ha avanzato l'ipotesi di fare una richiesta di questo genere. Quindi sì, era la stampa. C'è anche un pochino di confusione. Sì. Era la stampa, se non, adesso se non ricordo male, ad aver anticipato questa cosa oggi. Per cui tu dici, se ho ben capito, da qua al 24 prepariamoci che ogni volta che qualche giornalista, giustamente, metterà le mani sulla bozza. Ognuno di loro fa il suo mestiere, potrà uscire qualche mezza verità, però non è detto che sarà una verità, la verità finale, definitiva. Ma questo è sempre successo anche nel corso degli anni precedenti, insomma, che ciascuno cerca naturalmente di fare il colpo, poi magari la azzecca, ma molto spesso no, perché sono queste cose laboriosissime, no? Che vengono fatte, poi corrette. Ecco, Adriana, visto che ti ho in collegamento, allora ho capito che da qua al 24 ogni volta che si metterà a mano una bozza di quello che dovrebbe essere il giudizio finale vi saranno appunto varie indiscrezioni, appunto c'è chi aveva scritto per l'Italia si prospetta una richiesta di un'altra correzione da 3,3 miliardi per cui oltre a quella già i 2 miliardi che abbiamo già accettato altri 3,3, beh, se fosse così, 2 e 2 più 3 e 3 iniziano a fare una manovrina, perché 5 miliardi. Sì, ma in realtà, tra l'altro, una cosa che non si dice mai è che questo famoso 0,3 concordato in realtà è quasi 0,4. Perché diciamo, tra i fondi di riserva che erano stati messi e poi impegnati per appunto andare incontro alle richieste di Bruxelles e quanto era stato fatto prima, se non ricordo male, andavamo sui 4 miliardi e oltre, e questo faceva più o meno lo 0,4%. E questo per esempio non si tende mai a dire, ma la manovra che è stata che ci ha evitato la bocciatura non si è chiuso allo 0,3, bensì allo 0,375, sì, per esempio. Allora, adesso un dettaglio. Ho capito benissimo. Dicevo, visto che ti ho in collegamento, vorrei anche un commento su questa, non dico campagna di stampa perché sarebbe eccessivo, ma insomma domenica il Financial Times, mi riferisco a Juncker chiaramente, l'editoriale della Bloomberg oggi, anzi ieri scusatemi, deve dimettersi, è un sentimento molto britannico nei confronti di un'Europa che fa arrabbiare molto gli inglesi, o secondo te è una vera e propria campagna di stampa a questo punto quella che pone, che chiede le dimissioni del neo presidente della Commissione Europea? Io direi che c'è dentro un po' di tutto, nel senso che dal punto di vista legale, io stavo proprio ascoltando adesso la nuova commissaria alla concorrenza, che è quella che sta indagando appunto su queste pratiche denunciate dal LuxLeaks sulle esenzioni fiscali mega alle grandi multinazionali. Ecco, dal punto di vista legale, lei stesso lo ribadiva, c'è poco da discutere, nel senso che sono legali, anche se non sono, diciamo, eque, ma comunque sono consentite. Quello che invece non funziona è il fatto che un primo ministro di un paese che ha praticato queste cose ci si chiede se possa diventare presidente della Commissione e se possa farlo con credibilità ogni volta che dovrà appunto non solo, diciamo, avviare iniziative politiche di vario genere, ma come dicevamo adesso, anche impartire politiche poco, poco sacrifici, politiche diciamo sgradevoli, generare opinioni pubbliche, e quello è il punto, cioè ha la statura etica per poter fare questo a gente che comunque sarà soggetta a grossi sacrifici, questo è il punto. Guarda, molto, molto modestamente dal nostro osservatorio, ripeto, molto modestamente e molto parziale, i messaggi quando parliamo di Juncker sono di questo tenore. Allora ci chiedono sacrifici, di fare i compiti a casa, e poi nel frattempo questo organizzava una maxi operazione di illusione fiscale per avvantaggiare il suo paese, adesso viene a darci lezioni. Cioè è più una critica sulla credibilità politica che non sul reato, che poi è tutto da dimostrare e quant'altro. Certo, no, ma detto questo, gli inglesi perché alzano il tiro? Primo, perché loro sono abituati contro i loro politici a sparare a zero, questo in generale. Secondo, perché secondo me in fondo i mercati sono calmi da tanto tempo, e non ci dimentichiamo anche, non so, agenzie del calibro di Reuters che hanno mandato in giro queste agenzie su problemi interni alla BCE, difficoltà crescenti di Draghi, eccetera. Cioè io ho come la sensazione che da qualche parte, essendoci diciamo due paesi del peso dell'Italia e della Francia nella bufera, se si vuole, no, di queste leggi di stabilità, essendo i mercati affamati di una speculazione che oramai è più di un anno che non lucra più di tanto sulla dissoluzione dell'euro, ecco, se si mette un po' insieme tutto questo può venire fuori una possibile linea di tendenza che può anche spiegare perché oggi si possa voler attaccare Juncker, certamente perché la figura è contestabile e non c'è niente su questo, ma anche perché si potrebbe prestare a secondi fini. Per esempio appunto un movimento sui mercati in questo momento per la City potrebbe non essere male, e nemmeno voglio dire per... No, fai bene a evidenziare come vi siano diversi, non solo attori, ma elementi, anche elementi in gioco. Certo, grazie. Certo. Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Adesso il traffico. Focus Economia. Allora, la borsa adesso e poi passiamo alle banche, alle trimestrali e al catasto, come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore. Flavia Carletti, buonasera. Buonasera a tutti. Dicevo, gli indici, quello milanese soprattutto, invariato, un po' meglio Parigi e un po' meglio Francoforte, più 0,18, e soprattutto Parigi più 0,50. In realtà a rendere piatto il nostro indice ci ha pensato soprattutto Unicredit, meno 3,30%, di cui parleremo tra un attimo. Intesa San Paolo alla fine è un po' in flessione, meno 0,18%, mentre sugli altri titoli, Fiat Chrysler Automobiles più 3%, Tod's più 2,40%, Exor, la controllante di Fiat, più 2,30%, Ferragamo più 2% come Monte dei Paschi, Atlantia più 1,60% come Telecom Italia, l'1,40% lo guadagna Snam, ma è l'1,20% G-Tech. Partiamo dal Monte dei Paschi, che oggi ha vissuto un'altra giornata sull'otto volante. Esattamente, alla fine MPS è stata il migliore dei bancari, chiudendo a più 1,95%, e il titolo è stato spinto in parte dal fatto che la Consob ha deciso di estendere fino al 27 gennaio il divieto di assumere o incrementare le posizioni nette corte sulle azioni della banca senese, che sono le posizioni considerate ribassiste, e quindi questa cosa ha in qualche modo salvaguardato il titolo. In più ci sono state di nuovo delle speculazioni in qualche modo su possibile interessamento di BNP Paribas al MPS, che potrebbe quindi la banca francese cercare di creare quello che potrebbe essere il terzo polo bancario italiano in caso di una fusione con BNL, che è già la banca controllata in Italia dai francesi. E quindi diciamo che alcuni commenti di alcuni analisti, cioè più che analisti, degli osservatori a livello economico della situazione, hanno provato a fare delle ipotesi in di questa aggregazione, provando a simulare anche quelle che potrebbero essere sinergie, hanno ridato un po' di probabilmente anche di slancio a questa ipotesi che era già stata fatta anche in precedenza, e quindi il titolo oggi è stato il migliore dei bancari. Ancora sì, il titolo Fiat o Fiat Chrysler Exor, qui ci sono varie dichiarazioni di oggi di Marchionne, anche su quando verrà collocata la Fiat Chrysler Automobiles e quando verrà collocata, quando debutterà in borsa la Ferrari. Sì, esattamente, oggi in occasione della presentazione di una nuova vettura Fiat, Marchionne ha parlato ai giornalisti dichiarando che il collocamento delle azioni FCA negli Stati Uniti è probabile che avvenga prima di Natale, quindi si parlava già di un roadshow nel mese di dicembre per presentare il collocamento, che potrebbe riguardare circa il 20% del flottante, mentre per quanto riguarda Ferrari bisognerà aspettare un po' più di tempo per lo sbarco in borsa, e si parla del secondo o terzo trimestre del prossimo anno. In più oggi FCA ha beneficiato anche del giudizio di Goldman Sachs, che ha inserito il titolo nato dalla fusione appunto da Fiat e Chrysler nella sua conviction list, cioè il paniere dei titoli preferiti, fissando un prezzo obiettivo a 13,3 euro, che è di 4 euro circa superiore a quelle che sono le quotazioni di oggi del titolo. Ancora per quello che riguarda le dichiarazioni di Marchionne, faccio notare che ha parlato anche di politica, ha detto che Renzi deve andare avanti, è nella direzione giusta. Per quanto uno possa criticare certe scelte, la direzione è quella giusta. Marchionne oggi parlava con i giornalisti presentando la nuova Fiat 500X e sulle relazioni, sul rapporto con i sindacati ha detto Marchionne: facciamo due mestieri diversi io e Renzi, capisco benissimo il tipo di problemi che sta avendo, non condivido completamente l'atteggiamento nei confronti del sindacato, ma lo capisco, sono momenti che anch'io ho vissuto. Spostiamoci adesso sulle telecomunicazioni, sui titoli di Telecom, a partire da Telecom Italia, più 1,60%. Oggi sul Sole 24 Ore c'è un'anticipazione in cui si sottolinea come l'intera operazione di vendita delle torri di TIM in Brasile potrebbe subire un'accelerazione. L'operazione potrebbe valere quasi 1 miliardo di euro, 900 milioni di euro. Sì, esattamente. Secondo le indiscrezioni riportate dal Sole potrebbe esserci un'accelerazione di questa operazione di vendita, e in particolare viene dato il gruppo americano American Tower, che è un colosso del settore, in pole position tra le offerte vincolanti arrivate al gruppo italiano per l'acquisto, e questa, la cifra data intorno ai 900 milioni non è considerata lontana a quelli che erano i target che si era posta la stessa Telecom, e quindi la notizia è stata comunque accolta positivamente dal mercato. In più Telecom oggi comunque è andata bene in scia a tutto il comparto delle TLC europee, che hanno seguito Vodafone nel gruppo inglese, nonostante abbia avuto un crollo dell'utile semestrale del 70%, ha comunque aumentato le stime per il margine operativo lordo di tutto l'anno, e quindi diciamo questo aumento delle stime sul MOL ha generato gli acquisti su Vodafone a Londra, che è arrivata anche a salire oggi di oltre il 6%, trascinandosi dietro tutto il comparto TLC, non solo in Inghilterra ma anche appunto in Italia, in Francia, anche detto Deutsche Telekom in Germania. Allora, migliori e peggiori in assoluto. Zucchi più 15%, quasi 14,60%, sarà contento Buffon. Seat pagine gialle più 9%, Poligrafica San Faustino più 7%, Ambro Mobiliare più 5,30%, più 5% fare Telit. Invece il fronte opposto è rappresentato da Industria e Innovazione meno 9,5%, Sintesi meno 8,40%, Soft Strategy meno 5,70%, e Key Group meno 5,40%. Grazie a Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR24, molti mi scrivono tosta Adriana Ceretelli, e certo, mica la invitiamo perché è moscia, insomma, è tosta, le sue belle idee, ed è sempre bello confrontarsi con lei. Adesso dicevo c'è il GR24, poi parliamo invece delle trimestrali di Unicredit e Intesa San Paolo, le due principali banche di questo paese, e del nuovo catasto. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Come promesso, adesso parliamo, continuiamo a parlare di borsa in qualche modo, perché facciamo partire un approfondimento sui due bilanci. Non ho detto che siano le uniche due banche importanti, ho detto le due principali banche italiane, e su questo non ci sono dubbi: Unicredit e Intesa San Paolo. Uscite infatti oggi anche le trimestrali di Unicredit e Intesa San Paolo. Intesa San Paolo ha chiuso il terzo trimestre con utili per 483 milioni di euro, superiori alle attese degli analisti, meglio delle previsioni, a questo punto anche l'andamento dei primi nove mesi, 1 miliardo e 200 milioni di profitti. Invece Unicredit, anzi invece nulla, ha fatto meglio delle attese anche Unicredit, che ha chiuso il terzo trimestre con profitti per 722 milioni, più 80%, che portano l'utile di Unicredit nei primi nove mesi a 1,8 miliardi di euro, molto vicino all'utile fissato come obiettivo da Piazza Cordusio di 2 miliardi di euro. Tra l'altro Intesa San Paolo, per voce anche del suo numero uno Messina, Carlo Messina, commentando i risultati, ha detto: confermiamo il target di 10 miliardi di dividendi entro 2017, ha fatto notare che la stangata del governo Renzi sulla tassazione della plusvalenza sulla quota Banca d'Italia costa a Intesa San Paolo oltre 400 milioni di utile in meno nel trimestre. E anche Ghizzoni, numero uno Federico Ghizzoni di Unicredit, ha confermato l'obiettivo di 2 miliardi di utili nel 2014. La borsa non l'ha presa benissimo, o meglio, o forse si aspettava di più, nel senso che Unicredit è il peggior titolo tra quelli in maggiore capitalizzazione, meno 3,31%, e Intesa, che andava meglio, chiuso comunque leggermente negativa, meno 0,18%. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Insomma, non gli basta mai, come dicono a Roma. Cioè, cosa dovevano fare ancora? Oppure erano... perché tutte le agenzie citano dati quanto utile superiori alle attese. Quindi, perché la borsa reagisce così? Ma soprattutto nel caso di Unicredit c'è stato un po' di una lettura non del tutto positiva dei dati sui ricavi, nel senso che se guardiamo i nove mesi i ricavi complessivi dell'istituto sono scesi del circa del 4%, e questo è un dato che soprattutto alcuni analisti nei report che hanno scritto a caldo hanno enfatizzato, perché non dimentichiamo, questi sono i primi dati che escono dopo i grandi esami BCE ed EBA, quindi un po' la prova per capire esattamente quale sia lo stato di salute e la tonicità muscolare, diciamo così, il tono muscolare delle banche. Questo dato sui ricavi, secondo alcuni analisti, potrebbe lasciare intendere che Unicredit probabilmente confermerà i target sui dividendi, quindi la cedola arriverà, ma forse è ancora un po' bloccata, e di qui appunto la performance di borsa non buona. Sì, non buona, alcuni dicono eccessivamente penalizzante. Comunque veniamo ad alcuni, allora, i due bilanci, va detto, sono bilanci in chiaro. C'è qualche elemento di debolezza, di criticità. Partiamo da Intesa San Paolo. Sul fronte delle sofferenze, che vuol dire tutti i prestiti che una banca fa e che si incagliano, vuol dire che non riescono a tornare alla banca e diventano deteriorati, lì i dati oggi forniti non sono buonissimi. Dunque, e anche qui c'è luce e ombre, tanto per cambiare, nel senso che da un lato abbiamo l'ammontare complessivo dei crediti in sofferenza, che quindi necessitano di coperture, che questo vuol dire risorse da accantonare e da non distribuire. Mm-hmm. Questo ammontare complessivo dei crediti in sofferenza aumenta. Il dato positivo però è che il ritmo con cui crescono questi crediti deteriorati sta ulteriormente rallentando. Infatti sia Intesa che Unicredit hanno ridotto gli accantonamenti, però continuano a farne, e questo vuol dire che finché non comincerà a diminuire lo stock complessivo, l'ammontare globale, e le soddisfazioni per gli azionisti saranno inevitabilmente depresse da questo elemento. Unicredit invece, tu dicevi, la parte dei ricavi è quella che ha lasciato forse più perplessi. Sì, esatto, sui 9 mesi fa meno 4%, qui beh, evidentemente quello che pesa è la situazione economica, per cui un continente, perché Unicredit è una banca presente in molti paesi, non soltanto in Italia, però l'Italia pesa e anche altre economie che stanno rallentando, è chiaro che più appunto un'economia rallenta, meno domanda di crediti e questi sono comunque alla fine le voci su cui una banca fa buona parte dei propri utili e quindi e dei ricavi, e così si spiega evidentemente questo meno 4% che non è piaciuto molto. In generale però possiamo adesso, questo non vale per il Monte dei Paschi che oggi si è mosso invece su altre voci, lo ricordavamo prima, l'interessamento di BNP Paribas, poi molto molto si è raffreddato su questo, ha chiuso con un più 1,95%. Per cento, ma riusciamo anche a da questi due bilanci delle prime banche italiane a dire che in effetti si sta creando, non voglio dire serie A, serie B perché poi mi becco gli insulti, ma insomma si sta creando come nel ciclismo una pattuglia di testa, mettiamola così, dai, che viene meglio, e un gruppo di banche che non dico che facciano da gregario perché non voglio mancare di rispetto a nessuno di loro, ma che hanno più difficoltà, e non mi riferisco solo all'esito degli stress test. Mi sembra che alcune banche hanno fatto l'aumento di capitale e iniziano a macinare utili e dividendi, altre invece meno, ecco, mettiamola così. Sì, assolutamente, nel senso che gli ordini di grandezza ci possono aiutare, le banche, le due grandi banche, intese Unicredit, come dicevi tu, hanno postato utili circa di 500 milioni, addirittura di più, in un trimestre. Se noi prendiamo tutte le banche che stanno sotto di loro, probabilmente insieme non fanno la stessa cifra di utili in un trimestre. Questo ci dà l'idea proprio di grandezze e di stati di salute che effettivamente sono abbastanza diversi, e questa in fondo era la stessa sensazione che era emersa dagli stress test, perché quello era una fotografia, sì, diciamo, predatata, perché comunque i dati sono quelli del 31 dicembre del 2013, però alla fine le due colonne della classifica sono sempre le stesse. Ecco perché poi ogni tanto la borsa si eccita sull'ipotesi di fusioni di taglia media, medio piccola, nel senso che tutto questo, ma ci potrebbe troppo lontano oggi, vale anche a dire, beh, attenzione, le banche più diversificate, perché Unicredit in primis, ma anche Intesa San Paolo, hanno partecipazioni all'estero, e le banche che hanno una massa critica più forte riescono poi a uscire meglio. Notiamo più difficoltà, ma non mi riferisco a Monte dei Paschi e alla Cassa di risparmio di Genova. Abbiamo visto anche alcuni stress test non essere così eccellenti su crediti minori, Valtellina, Sondrio, Vicina, se vado a memoria, Popolare Emilia Romagna, Banco Popolare, insomma tutto il mondo dei popolari, secondo me è un mondo che prima o poi una domanda dovrà farsela, se e come cambiare lo statuto, che di fatto adesso impedisce una scalata e anche una fusione tra banche popolari, il voto capitario, una testa, un voto, la soglia minima, la soglia massima di quota azionaria e tutto insieme di altri elementi. Grazie Marco Ferrando del Sole 24 Ore, il traffico e poi il catasto, non vi dico quanti messaggi e mail sono arrivate sul neocatasto. Faccio notare che adesso abbiamo capito che ha varato il neocatasto, poi servono i decreti attuativi, serve capire come funzionerà il catasto. Vedo già il prossimo ospite che fa un cenno abbastanza eloquente con la mano. Focus Economia. Tempo è appena arrivato anche il bilancio di Moncler in questi giorni, sotto i riflettori per altri motivi. Buono, più che buono, l'utile dei primi 9 mesi balza a 70,5 milioni di euro, ricavi più 16%, quindi l'utile è quasi raddoppiato rispetto ai 38,8 milioni dei primi 9 mesi del 2013. Indebitamento finanziario netto in aumento però, dai 171 milioni di fine 2013 a 217 milioni. Via libera definitivo ieri, programma già chiuso da parte del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo per le commissioni censuarie. Traduciamo, sono gli organismi che di fatto attiveranno la riforma del catasto. Cambia il sistema di calcolo delle rendite catastali. con l'obiettivo di avvicinare il valore degli immobili alle quotazioni di mercato. Sapete tutti qual è il problema: ci sono immobili di pregio che sono per il catasto immobili popolari, pagano una bassa, pagavano una bassa ICI, una bassa IMU, una bassa TASI, immobili che in realtà non sono di pregio ma catastati come immobili di pregio per i vani, pagano delle volte una tassa sulla casa più alta di immobili che valgono 2-3 volte quanto valore di mercato. Allora, una volta, intanto le valutazioni saranno legate ai metri quadri e non più al numero di stanze, così chi ha loft da 300 metri quadri, diciamo, non sembra più povero di chi vive in un trilocale. Al di là della battuta, una volta stabilito il valore dell'immobile si applicheranno coefficienti legati all'ubicazione, all'anno di costruzione, ai livelli di finitura, eccetera. I nuovi sistemi di calcolo interesseranno 35 milioni di abitazioni e 26 milioni e uffici, 26 milioni tra negozi ed edifici commerciali. Non è da escludere che ci possa essere un aumento del carico fiscale per alcuni proprietari, stando alle prime simulazioni, anche se in teoria la legge delega prevede che il gettito complessivo resti invariato. Attualmente il fisco sugli immobili garantisce introiti per 52 miliardi di euro. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, diciamola tutta, visto che siamo in finale di programma, una riforma del catasto che lasci il getto invariato, io non ci credo, perché o lo fa abbassare, cioè, o lo fa aumentare. Tendenzialmente, sapendo che il problema si pone sugli immobili diventati spesso di pregio, perché quell'area si è rivalutata, perché l'immobile è stato cambiato, perché va un altro tipo di immobile, e per il catasto sono ancora invece immobili popolari o non di pregio, io mi aspetterei, ma chiedo a te conferma, che vi sia complessivamente una rivalutazione, soprattutto per gli immobili che il mercato reputa di pregio, ma il catasto reputa non di pregio. Non c'è dubbio che gli immobili, diciamo, oggi sottovalutati dai valori catastali attuali vedranno crescere anche in modo molto importante, anche di 3-4 volte il loro valore fiscale e di conseguenza le loro imposte. La clausola di salvaguardia che tu evocavi nella legge delega dice: vabbè, se cresce uno perché è sopravvalutato, si abbassa un altro perché è sopravvalutato, cresce quello che oggi è sottovalutato. Io lo voglio vedere, cioè, che se io pago 100 euro di TASI non scommetterei più, ecco, di 3 euro sull'efficacia della clausola. Nel senso che se io vivo in un immobile che è sopravvalutato e pagassi 100 euro di TASI, e tu vivessi in un immobile che è sottovalutato e pagassi 50 euro di TASI, pur avendo una casa molto più bella della mia, cosa reale, certo, ci incontriamo a 75. No, dico, io voglio vedere, tu arriverai a 100, sì. 110, io voglio vedere lo Stato che a me porta la TASI da 100. No, ma infatti, 50. Anche perché il problema è il seguente: il primo, le clausole di salvaguardia funzionano sempre quando sono a favore dello Stato, vedasi aumenti dell'IVA, vedasi aumenti delle accise, non hanno mai funzionato, almeno finora, quelle scritte a favore del contribuente. Due, per provare a garantire una effettiva invarianza di gettito, tu dovresti avere un sistema di aliquote, un sistema fiscale sugli immobili più o meno ordinato. Allora, oggi noi abbiamo in Italia circa 200.000 aliquote, neanche il più occhiuto. Stai scherzando? Tra IMU e TASI sono 200.000. Ah, perché ogni ente locale poi, sì, applica la sua, sì, sì. Certo. Allora, 200.000 mi sembra tante, però. Ma no, guarda, sono 90.000 circa quelle dell'IMU e 110-115.000 quelle della TASI. In un sistema così concepito, neanche il più occhiuto dei controllori, neanche una TASI 2.0. Come fa 90.000 aliquote dell'IMU? Perché dici moltiplicate per i comuni? Perché ogni comune ha delle diversificazioni al proprio interno per anche micro categorie immobiliari. Io, sindaco tal dei tali, do un'aliquota più bassa alle nuove imprese se fatte da under 35, purché... Sì, eccetera. Bologna, per esempio, le detrazioni della TASI abitazione principale sono 23 detrazioni diverse, quindi i parametri, insomma, si fa presto a raggiungere un numero. 90.000 IMU e 110-115.000 TASI e 56 milioni di MUSSI. Non c'è nessuno che sia in grado di controllare una roba del genere. Terzo problema, la questione delle sottovalutazioni degli immobili dal punto di vista fiscale che tu evocavi era una questione molto vera quando c'era l'ICI, ma nel frattempo le tasse sono più che raddoppiate, quindi è vero che il valore fiscale è rimasto molto basso, ma la produzione di tasse di questo valore fiscale si è moltiplicata per 2,5, quindi è un problema, diciamo, da trattare diversamente. Io l'avevo detto che non bisognava levare l'ICI, perché ogni volta che levi una tassa in sto paese ti rientra dalla finestra raddoppiata, però questa è una vecchia adesso battuta. Adesso levano la TASI, vediamo. Ecco. Però una cosa va detta, è sacrosanta, l'abbiamo chiesta più volte, la ridefinizione del catasto e quindi la via libera alle commissioni censuarie. Perché? Perché questo diciamo nuovo catasto, che deve ancora, cerchiamo di capire anche i tempi, si baserà oltre che sui metri quadri invece che i vani, che trovo assolutamente più corretto, anche coefficienti legati all'ubicazione, all'anno di costruzione, livelli di finitura. Insomma, voi pensate come sono cambiate le città medie e grandi, ma anche piccole italiane negli ultimi 20 anni, per capire zone che una volta erano di non pregio, sono adesso richiestissime, zone che magari erano di pregio lo sono molto meno perché ubicate in aree meno importanti. Pensate all'edilizia degli anni 60-70, la rivalutazione dei centri storici, aree prima diciamo considerate semiperiferiche esplose improvvisamente, quindi questo è sacrosanto. Vedremo, non è sacrosanto, o meglio sarebbe sacrosanto anche che il gioco fosse quasi a somma zero, cioè paga di più chi pagava immeritatamente di meno e paga un po' di meno chi stava pagando immeritatamente di più. I tempi di applicazione. I tempi di applicazione sono lunghi perché ci sono da fare queste commissioni che sono l'oggetto del decreto approvato ieri, devono iniziare a lavorare, bisognerà aspettare almeno 3-4 anni per vedere i nuovi valori fiscali. Il riordino, come dicevi tu, è molto importante. Banalmente, se io abito in estrema periferia, la mia casa è nuova e quindi la rendita catastale gli è stata attribuita recentemente, ha una rendita catastale più alta di una bella casa in centro, la cui rendita però gli è stata attribuita svariati decenni fa. Tutte queste storture sono storture da cambiare. Sarà importante che, valutata la nuova base imponibile, perché da tutto questo viene fuori che la base imponibile del mattone italiano cresce rispetto a oggi, bisognerà abbassare proporzionalmente le aliquote per evitare che si paghi di più e per fare in modo che ciascuno paghi più o meno il giusto. Sicuramente un catasto rivisto diventa più diciamo corretto e sta anche meglio nell'ipotesi della tassazione proporzionale al, non dico in questo caso al reddito, ma alla ricchezza. Ti chiedo un'ultima cosa, questo potrebbe incidere sui valori degli immobili? Teoricamente no, perché quello è il valore di mercato, però... Teoricamente no, perché appunto quello è valore di mercato. Naturalmente tutto il sistema fiscale incide sul valore degli immobili, come dimostra il fatto, lo abbiamo scritto ieri, che nelle grandi città negli ultimi 2 anni, quindi la crisi era già iniziata da molto, il valore delle case è sceso anche in alcune zone del 10-15%. Quindi una tassazione sbagliata uccide il mercato e abbatte il valore degli immobili. Una tassazione ordinata e soprattutto di un peso sostenibile potrebbe permettere al settore di ricominciare a respirare. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.